Buonasera, bentornati a Smart City. Questa sera seconda puntata dello speciale dedicato al mondo dei droni. Nella puntata di ieri sera abbiamo raccontato di come i mondi più disparati si stiano interessando ai droni. Abbiamo parlato di droni che trasportano materiale sanitario tra un ospedale e l'altro, droni che sorvegliano le abitazioni collegate ai sistemi d'allarme, droni che permettono alle agenzie immobiliari di mostrare i dintorni dei propri immobili in vendita, droni che accompagnano i carri attrezzi per fotografare la situazione di un incidente prima che il mezzo venga spostato. La principale limitazione all'ulteriore espansione delle attività dei droni è oggi legata, oltre che alle questioni normative, alla loro autonomia ancora molto limitata. Un filone di sviluppo è quindi quello dei droni capaci di volare molto a lungo, che aprono una serie di nuove prospettive. A questo punto del discorso che ci siamo fermati ieri sera, e da qui ripartiamo sempre con l'aiuto di Luciano Del Castro, presidente di Roma Drone. Buonasera Luciano, bentornato. Buonasera a voi tutti. Dunque Luciano, ieri ci spiegavi che per il volo di lunga durata si punta sia sui droni dirigibile, per ovvie ragioni, sia sui droni ad ala fissa, quindi quelli simili a dei piccoli aerei, mentre i quadricotteri tanto diffusi oggi sono poco efficienti, quindi inadatti a questo scopo. Ma ecco, veniamo agli esempi di queste nuove applicazioni per i droni capaci di volare a lungo. Per esempio ce n'è una che mi sembra molto curiosa, no? Si parla di questi droni per scacciare gli uccelli dai campi, no? Servono dei droni che continuano a volare, quando vedono un uccello vanno lì e gli fanno paura. Sì, ci sono diverse così progetti, sono applicazioni di impiego di droni della fissa che simulano le sembianze di uccelli. Rapaci o cose del genere. Esattamente, e questi sono immaginati per fare da spaventapasseri tecnologici, volanti, chiamiamoli certo. Così, anche in condizioni dove è necessario tenere lontani stormi di uccelli, per esempio sugli aeroporti. Ecco, e poi in caso di disastro, per esempio alluvione, distruzione delle reti telematiche, qui possono entrare in gioco i droni, come? Sì, questa è una delle soluzioni interessanti per l'attività di protezione civile. È noto che durante i grandi catastrofi, come per esempio i terremoti che spesso colpiscono il nostro paese, la prima cosa a mancare sono le linee di comunicazione, di telecomunicazione. Allora è chiaro che quando intervengono le forze di soccorso hanno necessità di comunicare tra di loro in maniera efficace. La possibilità di far salire un drone, magari un piccolo dirigibile o un drone multirotore vincolato a un mezzo di trasporto, che sia un ripetitore, consentirebbe, sulla base della quota che riesce a raggiungere questo drone, di avere un'area di copertura come una grande cella, certo, molto alta, naturalmente, che consentirebbe di ripristinare immediatamente le comunicazioni a favore dei soccorritori e quindi di consentire loro di svolgere al meglio il loro lavoro. Naturalmente tra le applicazioni dei droni, una delle applicazioni elettive è il monitoraggio del territorio. Qui ci sono progetti, quanto è importante questo filone del volo di lunga durata? Beh sì, soprattutto nelle grandi estensioni, per esempio per il monitoraggio di autostrade o linee di trasporto, oppure per il controllo di aree grandi come i porti o i depositi di container o grandi parchi solari. In tutte queste situazioni l'impiego di droni della fissa, che hanno lunga durata di funzionamento e velocità, è naturalmente consigliabile. Viene scelto il drone della fissa proprio per questo genere di applicazioni. Ecco, alla fine, per rimanere in volo a lungo, le strategie mi pare comunque di capire che sono due. Una è quella tipica dei dirigibili, diciamo, utilizzare quindi un oggetto molto leggero, l'altra invece punta sull'energia solare, no? Che cosa c'è da questo punto di vista? Si vede già qualcosa? Ci sono degli studi anche in Italia di applicare la tecnologia solare, quindi le celle solari, a dei droni dalla fissa, soprattutto anche a droni dalla rotante. Sono delle soluzioni tecnologiche avanzate, ancora l'efficacia di produzione di energia delle celle rispetto alle loro dimensioni è bassa, quindi bisogna mettere molte celle per poter avere il minimo di energia, ma in prospettiva questo potrebbe essere una delle soluzioni per aumentare indefinitivamente la capacità di volo di questi mezzi. Comunque aerei che stanno in volo a tempo più o meno illimitato già ne sono stati fatti, non c'è motivo di pensare che non si riescano a fare droni simili, soprattutto usando i dirigibili, no? Che unendo energia solare e capacità di galleggiare nell'aria potrebbero stare per aria anni volendo, monitorare un oceano. Certo, questo era uno dei progetti, per esempio, per portare internet nel continente africano, dove il costo dell'infrastruttura tradizionale sarebbe elevatissimo, e quindi di far volare per mesi, mesi e mesi dei droni della fissa produzione solare che potessero rappresentare dei ripetitori del segnale. Naturalmente questa è una questione di sviluppo tecnologico. Gli aerei a propulsione solare hanno delle grandissime ali con moltissime celle solari, cose che forse non è proponibile per piccoli droni patrigliatori. Sicuramente in futuro vedremo l'impiego di energia solare più assiduo sui droni. E vabbè, Castro, ne avremo tantissime da raccontare ancora, ma il tempo è esaurito, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Luciano Castro. Grazie a voi, a presto. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani per la terza puntata dello speciale Smart City dedicato all'invasione dei droni. Buona serata.